Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 10:06 primi e 26 secondi in questo sabato 18 febbraio, post festa del gatto, e in studio con me... Non frequento felini, cioè le belve qui da noi sono, diciamo, carnivori generici. No, ma scusa, ecco, ti faccio notare che per la tua vita pubblica frequenti felini per definizione. Ah, in quel senso, sì. Qualche giaguaro, sì, qualche iena. E magari fossero gattini, sono dei felini abbastanza aggressivi e predatori, quelli che frequentiamo la nostra vita pubblica. Comunque, cari ascoltatori, grazie dell'ascolto in diretta in podcast, come sempre, dei conti della Belva. In questo sabato 18 febbraio vi dico subito di che cosa ci occupiamo. Allora, partiremo come sempre con il punto dei dati della settimana con il nostro Mario Seminerio, che stiamo collegando via Skype, e vedrete che ci sono delle novità interessanti, perché c'è il dato del boom dell'export e del surplus commerciale dell'Italia, e c'è il dato del surplus commerciale tedesco. Ma entrambi questi dati però rappresentano un problema serio per il Unione Euro, perché secondo l'Unione Euro noi come dovremmo essere penalizzatissimi dall'euro e solo uscire a svalutare per esportare, e invece pare di no. E poi soprattutto la misura del surplus tedesco, l'8% del PIL, viola le regole. È peccato che è fatta praticamente pressoché integralmente o quasi extra UE e non intra UE, e quindi viola anch'esso ciò che viene imputato e lamentato alla Germania. E oltre che di questo parleremo con Mario di alcuni addentellati italiani. Dopodiché iniziamo con un blocco dedicato a una questione che abbiamo affrontato anche sabato scorso. Quindi, cari commercialisti in ascolto, telefonateci all'800240024, perché ci eravamo lasciati con lo sciopero indetto dei commercialisti, e invece sciopero non lo fanno, che ci piace, o invece ho vinto la scommessa, non lo fanno. È vero, cioè, sciopero i tassisti e loro no, cioè, ma che mondo è, Oscar? Vedremo perché nel frattempo qualcuno di quei 12 punti è stato accolto. Ma noi faremo una riflessione, cari commercialisti, perché con Marco Kuchel, il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, che sarà di nuovo con noi, gli diremo fuori dai denti: ma lo sapete benissimo che lo Stato vi considera oramai i vostri funzionari. Quando è che ragioniamo sulla forma in cui siete organizzati negli studi e come prestate servizio, come affiancate l'evoluzione, che sarà rapida e con qualche effetto terribile, anche dell'offerta di servizi finanziari e degli intermediari bancari? Ecco, ci porremo il problema proprio della professione del commercialista. Lo faremo brevemente, ma perché chiediamo ai commercialisti di affiancarci sempre di più nelle prossime trasmissioni come protagoniste della trasformazione italiana, almeno quella che noi auspichiamo e che vorremmo avvenisse in un paese per molti versi bloccato. Non si accettano telefonate sulla divisione del PD oggi, perché è una cosa di cui non ci occupiamo. No. Fisica nucleare sugli atomi, esatto. Non ci interessa. No, gli atomi, processi fissi che fuggono dal controllo, mi sembra che siamo in presenza di un altro tipo di problema. Dopodiché apriremo una doppia finestra di riflessione, cari ascoltatori, perché ci porremo il problema della politica che sulla sharing economy proprio non ce la fa. Non ce la fa, perché questa settimana, con l'ennesimo proroga del mille proroghe sulla questione Uber NCC, anzi taxi NCC, esatto, che ha portato poi al fatto che ancora oggi a Milano non c'è un taxi che gira, sciopero illegale secondo l'autorità garante, ma insomma a far riesplodere il problema. Sono anni che la politica rinvia, promette, rinvia, non ce la fa. Non c'è solo il problema dei taxi NCC, perché al mille proroghe sentiremo anche la voce di uno dei protagonisti della trasformazione del trasporto su linee di bus nel nostro paese, e lo sentiremo perché Flixbus viene colpito da delle norme nel mille proroghe che nascono dall'iniziativa di un'offerta non tecnologica digitale e su app che caratterizza anche Flixbus, ma dei vecchi concorrenti italiani, anzi li identifichiamo pure, stanno nella regione Puglia, sappiamo chi sono i parlamentari, che però riescono a fare azione di lobbying e quindi ecco, sull'economia digitale non ci siamo ancora. Dopodiché ci porremo un altro problema con il nostro amico Udo Gumpel, perché in settimana esplode la richiesta di acquisizione della Opel in Germania, ma che appartiene alla General Motors americana, da parte di PSA, Peugeot Citroën francese. La reazione tedesca è scompostissima all'inizio, sembra che sia invece adesso, il deal è chiaro che si farà con un valore intorno ai 2 miliardi, però quello che ci interessa approfondire con il nostro amico Udo Gumpel è appunto perché la Germania all'inizio è esplosa, manco fosse governata da dei sovranisti o dalla Le Pen, e invece la cosa si fa, però è comunque interessante capire il perché della reazione. Allora Mario, ci hai raggiunto, come stai? Buongiorno a tutti, benissimo, tutto bene, grazie. Rituale giro per aggiungere, oltre a queste cose, ho già detto che dell'export italiano di quello tedesco ci occupiamo con la rubrica che comincia, la tua subito dopo, eccetera, eccetera. Cos'altro vogliamo aggiungere in settimana di segnalazione, Mario? Ma guarda, a me ha colpito molto questa settimana l'audizione in commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria dell'amministratore unico di Riscossione Sicilia, Antonio Fiumefreddo, il quale ha detto, diciamo, cose che peraltro già si intuivano, che negli ultimi 10 anni in Sicilia non sono stati riscossi tributi per 52 miliardi di euro. Ripetiamo il numero: 52 miliardi di euro in 10 anni. Di questi, 30 miliardi sono ormai inesigibili. Allora, chi ci ascolta ricorderà forse che il bilancio della regione Sicilia è caratterizzato, oltre a essere falso, diciamo, nella sua essenza, è caratterizzato da una mole imponente di crediti, la maggior parte dei quali sono inesigibili, al punto che il governo centrale di Roma da alcuni anni ha messo mano a questa problematica, nel senso che aiuta, come dire, a nome e per conto di tutto il paese, della nostra malintesa unità nazionale, una regione a statuto speciale e autonomia sovrana, visto che va di moda questo concetto. Non solo, Fiumefreddo ha detto anche che di fatto in Sicilia vige la norma della autocertificazione della regolarità della posizione fiscale in tutti gli appalti pubblici realizzati da qualunque stazione appaltante. Cosa vuol dire questo? Che la gente autocertifica il falso. Allora, che cosa si può dire su questa vicenda? Adesso so che il governatore Crocetta ha detto che questi sono tutti esempi del fatto che la regione sta reagendo al malaffare, eccetera, eccetera, però a me viene semplicemente da fare una constatazione. Se noi dobbiamo applicare fino alle estreme conseguenze della coerenza il concetto di statuto speciale di autonomia, una regione deve poter fallire in conseguenza di queste assurdità, senza retoriche di salvataggi nazionali. Applausi. Solo in questo caso, solo e soltanto in questo caso, il concetto di statuto speciale di autonomia si realizzerà nella sua compiutezza, tutto il resto sono ladrocini di Stato. Ecco, ladrocini di Stato, dietro l'usbergo dell'autonomia speciale. Io ricordo anche, perché questa settimana abbiamo avuto anche il rendiconto generale della Corte dei Conti sul bilancio INPS 2015, quindi ci siamo occupati con dei numeri spaventevoli. Io vi ricordo, non c'è più il patrimonio, Oscar, no, hai capito? Il patrimonio è negativo, il patrimonio è negativo grazie all'INPTAP dal 2012, che veleggia su 29 miliardi euro annui di perdita. Giusto, cioè, per ricordare ai nostri ascoltatori che pensano ancora che i loro soldi versati sono lì nel patrimonio, no, non ci sono. Non ci sono, ecco. Capito? I dipendenti pubblici 28,9 miliardi di perdite in un anno. I pensionati pubblici, non colpa loro, ma delle norme che hanno consentito dei moltiplicatori del montante versato particolarmente favorevoli, come accade del resto al Fondo Ferrovie dello Stato, che perde 4 miliardi di euro l'anno, come capita quello ex Poste, come capita quello ex Ferrovie, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio solo dirvi, perché io prendevo spunto da quello che diceva Mario sulla Sicilia, che delle 29.000 maxi pensioni italiane, il cui importo medio è 45.000 euro, ma che arriva appunto di 175.000 euro, Ebbene, ben 16.500, più della metà, si concentrano in Regione Sicilia, perché sono ex dipendenti della Regione Siciliana, appunto. Avete capito? Sì, ecco. E anche questo, poiché queste sole 29 trattamenti previdenziali costano 1.4 miliardi di euro l'anno, danno l'idea di che cos'è l'autonomia della Regione Sicilia, quello che ha detto Mario Seminerio. Antonio Fiumefreddo, l'eroico avvocato che sta tentando da un anno e mezzo di cambiare la faccia a Riscossione Sicilia, che in aggiunta a quello che ha detto Mario, vi ricordo, Riscossione Sicilia per oltre 20 anni ha praticato la linea della non esigibilità del dovuto fiscale da qualunque soggetto pubblico appartenente alla piramide di controllo della Regione Sicilia. Gli enti siciliani finivano in debito fiscale sapendo che non arrivava la cartella. I politici siciliani, eletti a qualunque livello, dal Consiglio Comunale all'Assemblea Regionale, eccetera, potevano contare sulla stessa certezza. Ecco, questa è la vergogna di un pezzo d'Italia. Vergogna, vergogna non per chi ci abita, è una vergogna la cui onta cade su di loro, perché oltre all'inefficienza del servizio pubblico appaiono anche agli occhi degli altri italiani come beneficati. I beneficati sono dei tardi, parassiti, miserabili che si identificano col sistema politico e istituzionale, mi dispiace, con pochissime eccezioni di quella regione, collusi con vasta parte della rappresentanza d'impresa e delle categorie, perché di questo si tratta. Ora, detto questo, torniamo tra un minuto, perché non vorremmo arrabbiarci troppo. Io ripeto, cari ascoltatori, su Taxi Uber e sui commercialisti chiamateci 800 24 00 24 per dirci la vostra. Torniamo tra poco. Della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. E invece no, perché questa settimana arriva il dato dell'export e del surplus commerciale italiano, e quindi pare invece che questo calabrone riesce a volare. Le imprese italiane eroiche, malgrado le tasse, malgrado i vincoli amministrativi, tutto quello che volete voi, però sull'estero ce la fanno. Mario, allora? Sì, è un dato sicuramente positivo, soprattutto il consuntivo del 2016 segnalato da Istat. Nel 2016 noi abbiamo avuto un aumento delle esportazioni che è dell'1,1% in valore e dell'1,2% in volume, cioè depurato dalle variazioni dei prezzi. L'import, per contro, ha registrato una diminuzione dell'1,4% in valore, ma un aumento del 3,1% in volume. Il che vuol dire, in soldoni, che l'Italia ha avuto un miglioramento delle cosiddette ragioni di scambio. Qui c'è da fare alcune considerazioni. Intanto, come segnala l'Istat, l'espansione dell'export è attribuibile quasi esclusivamente ai paesi dell'area dell'Unione Europea, che ha fatto un più 3%, in particolare con la Germania abbiamo fatto più 3,8%. Con la Germania, precisiamo, con la Germania in valore più 3,8%, esatto. Allora, altre considerazioni spicciole. Sappiamo che nei due anni immediatamente successivi allo zenith della crisi, diciamo dal 2011 fino al 2013, l'avanzo commerciale italiano, o comunque il miglioramento della bilancia commerciale italiana, è stato dovuto alla distruzione della domanda interna. Questo è abbastanza pacifico e acquisito, cioè la fortissima stretta fiscale attuata dai governi dell'epoca ha depresso il reddito e con esso le importazioni. Ma da circa il 2013 in avanti è proprio il miglioramento della bilancia commerciale italiana è dovuto in misura assoluta ed evidente al fatto che stiamo esportando di più. Cioè che abbiamo recuperato effettivamente competitività. Notate che noi non stiamo dicendo, è proprio il solo export, certo, ad essere aumentato. Questo indica, da un lato, sicuramente l'eccellenza delle nostre aziende esportatrici, che sono ancora più eroiche nell'innovazione ed eroiche nella capacità di resistere ad un sistema paese che ammazzerebbe anche un cavallo. E dall'altra parte bisogna anche dire che il concetto di distruzione della domanda non c'entra più una cippa, cari amici no euro che andate avanti con gli slogan per omnia secula seculorum, non c'entra più una cippa, e questo ve lo farete entrare in testa con un delay di circa un paio d'anni. Poi per quanto riguarda altri dati, ieri la voce.info ci ha informati, meno male diciamo perché c'è qualche fesso che queste cose le dice da tempo, che l'avanzo, il surplus commerciale tedesco non è nei confronti dell'eurozona, ma è nei confronti del resto del mondo. Ora, e anche di quello che è fuori dall'eurozona, segnatamente il Regno Unito. Allora, che cosa dire su questa considerazione? Cose che già noi sappiamo da tempo, che l'indebolimento dell'euro relativo all'azione del QE della Banca Centrale Europea e le innegabili doti di competitività dell'industria manifatturiera tedesca hanno fatto il resto. Dopodiché, come riuscire a riequilibrare questo surplus tedesco nei confronti del resto del mondo e di tutto quello che è fuori dall'eurozona, lo possiamo vedere. Io continuo a restare assolutamente scettico. Scusa Mario, io non riesco a capire per il nostro interesse e in che cosa costituisca una priorità il riequilibrio del surplus commerciale verso il resto del mondo della Germania. Cioè, proprio mi sfugge, perché a quella posizione contribuiscono i fornitori italiani e le imprese italiane che stanno nelle global value chain a guida tedesca. Quindi è come spararsi sui coglioni, visto che stiamo parlando dell'extra UE, o no? No, ma io sparerei sui coglioni, inteso sugli imbecilli, diciamo, non sulle parti anatomiche, che quello comunque possono sempre servire. Però, ripeto, le cose stanno andando in maniera discreta. Che poi l'Italia non cresca, perché ha comunque una fortissima debolezza degli investimenti, segnatamente degli investimenti pubblici che latitano da anni. Ma perché latitano da anni? Per colpa dei tedeschi? O per il fatto che i governi italiani che si sono succeduti in questi anni, anche in un contesto di crisi, hanno preferito ammazzare in culla la spesa pubblica per investimenti, la quale potrebbe anche non essere né efficace né efficiente? Non lo sappiamo, però questa è la cosa su cui riflettere. Allora, io a questo proposito volevo solo dirti, prima di passare ad altro, che nella mia personalissima opinione, questa settimana lo segnalo a chi ci ascolta come puntuale, precisa e un po' lungo, tecnicamente è scritto in maniera molto precisa, ma secondo me comprensibile e leggibile anche da chi non è uno specialista delle materie, su il blog Econopoli del Sole 24 Ore. Questa settimana è uscito, il 16 febbraio, è uscito un lungo articolo di Francesco Lenzi, che trovate, nel quale si affrontano in maniera molto precisa due questioni che sono attinenti a quello di cui abbiamo parlato a proposito del surplus commerciale e del totale dell'export italiano nel 2016 e del surplus commerciale tedesco nel 2016, di cui ha appena parlato Maria, e che sono il cuore dell'obiezione dei no euro e che riguardano le due seguenti questioni. Se andiamo a vedere l'evoluzione nel tempo del tasso di cambio effettivo applicato all'export italiano, è vero o no che noi siamo penalizzati dall'euro? Domanda A. Domanda B. Se andiamo a vedere l'evoluzione del tempo dei tassi di interesse nominali e reali, è vero o è falso che noi siamo penalizzati e che a trarne vantaggio è la Germania? Ecco, con un esame tecnico preciso, perché in entrambi poi i fenomeni hanno assunto curve diverse in questi anni, vedrete che la conclusione di Francesco Lenzi, numeri alla mano, è no, cari no euro, quello che dite non trova riscontro nei fatti. Secondo me è uno dei migliori articoli che io abbia letto da questo punto di vista. Non so cosa ne pensi, Mario. È vero, è un articolo assolutamente da collezionare, da tenere presente, da rileggere prima e dopo i pasti. Tra l'altro, Oscar, segnalo che questa settimana il nostro amico Gianluca Codagnone ha fatto un po' i conti e le pulci ai saldi commerciali intra-eurozona e ha scoperto che nel 2016 l'avanzo commerciale tedesco nei confronti dei paesi dell'area euro è stato di 13 miliardi, mentre l'avanzo italiano, sempre nei confronti dei paesi dell'area euro, è stato di 12 miliardi. Certo. Che in proporzione alle relative economie vuol dire, esatto, che se c'è un fellone, perfetto, questo è l'Italia, ammesso che passa. Se c'è un paese che sta veramente facendo bene come competitività anche intra-eurozona, pescare a Pescara. Esatto, vabbè. Poi un'altra cosa volevo dire, in settimana è uscita la previsione d'inverno, il winter forecast della Commissione europea. Qui non è che ci sia, cioè c'è da dire ma anche da non dire, cioè che cosa cambia per il nostro paese? Il nostro paese in un contesto di ripresa tangibile e manifesta non riesce, almeno a livello di previsioni, a schiodarsi dall'1%. Resterà su questi livelli anche per i prossimi 2 anni. Nel frattempo che cosa sarà cambiato? Beh, sarà cambiato che il nostro deficit pubblico strutturale aumenta ogni anno, quest'anno e il prossimo, di circa 0,5 punto di PIL. Malgrado ciò, i modelli, che ovviamente sono fallaci ma servono come bussola, vedono la disoccupazione italiana inchiodata al 12% nell'arco del triennio di previsione. Che significa questo? L'Italia ha una posizione fiscale espansiva, ma la posizione fiscale espansiva, se non vi piace guardare il saldo strutturale perché è troppo tecnico oppure non è direttamente immediatamente misurabile, bla bla bla, guardate l'avanzo primario. L'avanzo primario italiano continua inesorabilmente a scendere ogni anno che passa. Quindi c'è una stance fiscale espansiva in Italia che non riesce a spingere il PIL al di là dell'1%, con una disoccupazione che resta inchiodata nei dintorni del 12%. Traduco per l'ennesima volta: l'Italia sta facendo una politica fiscale blandamente prociclica, blandamente espansiva e prociclica, ma del tutto inefficace ed inefficiente, perché le metriche fondamentali, cioè debito PIL e disoccupazione, non cambiano, certo. Ma è colpa dei tedeschi. Non solo, ma l'attivo primario non si sta preparando a un potenziale rialzo dei tassi, e questo è un bel problema, perché vuol dire che il governo fa veramente la cicala. Ma non devono salire i tassi, qui deve essere eterno. Anzi, attenzione, questa settimana vi segnalo, sono uscite le minute della BCE che hanno fatto fare un balzo di felicità a chi spera che qui duri in eterno e si concentri solo sull'Italia, perché se le avete lette, Mario e Carlo Alberto, c'è un accenno, è iniziato il dibattito, sia pur riservatamente, sul fatto che bisogna superare la norma per la quale gli acquisti sono nelle esatte proporzioni della partecipazione al capitale della BCE e dei paesi membri. E la capital key. Questa cosa ha fatto immediatamente, io ho ricevuto immediatamente alcune cose dal MEF, dicevo, è importantissimo dare evidenza, perché poi oramai funziona così l'informazione. Invece, cari ascoltatori, io vi voglio segnalare che questa settimana, anzi ieri, i due decreti rivisti dopo che la Corte Costituzionale li aveva bocciati, i decreti di attuazione della riforma Madia, che non erano ottenuto la previa intesa del parere formale della Conferenza Stato-Regioni, che erano stati, per così dire, scritti dando per scontato che il 4 dicembre gli italiani votavano solo sì, invece hanno votato no, e il potere alle regioni restano, quindi ci vuole la loro opinione, testimoniano la marcia indietro potente che il governo sta innestando su alcuni capitoli. Prendete le partecipate, la famosa promessa da 8.000 a 1.000, ecco, il decreto uscito ieri, sento di poter scommettere con chiunque di voi, non raggiungerà affatto questo risultato, proprio per niente. L'amministratore unico che doveva essere imposto al più degli 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, non sappiamo neanche quanti sono, perché nessuno dei 10.000 enti italiani ha mai davvero rispettato l'obbligo che già c'era prima di comunicare al MEF quanto società partecipate avessero di primo, secondo e terzo livello, però comunque l'amministratore unico è saltato, tanto per essere chiari. Siamo nell'ottica del proporzionale, quindi abbiamo bisogno di più poltrone. I criteri precisi per la cessione o liquidazione sono saltati. La stessa ricognizione, la prima ricognizione è prorogata a giugno. Mi dispiace, cari amici del governo Gentiloni, di questo passo è l'ennesima chiacchiera. Non ci sono sanzioni per chi non dovesse procedere alle fusioni e cessioni. Per esempio, l'ATAC, che rientrava da sempre nelle categorizzazioni usate dall'ex commissario Spending Review, che diceva dopo 3 anni di perdite la società controllata deve intervenire Palazzo Chigi con una procedura speciale per verificare se commissariarla, avviare la cessione o liquidazione. L'ATAC perde da 10 anni, non gli passa a nessuno praticamente il cervello di prendere sul serio quello che diceva Cottarelli. È bastata una delibera in consiglio comunale pentastellato a Roma per dire giù le mani dall'ATAC, ce la teniamo noi. Roma non avrà mai soldi da investire in proporzione rispetto alle perdite in conto economico e patrimoniale dell'ATAC. Ecco, mi fermo qui. Anche l'altro decreto delegato, quello su i furbetti, sono le stesse norme di prima, con la differenza che il procedimento disciplinare per licenziare i furbetti non dura 120 giorni ma dura 30. La differenza non è quella, la differenza è che se dall'alto faranno qualcosa per stimolare davvero i dirigenti a controllare. Anche prima il dirigente poteva essere colpito, licenziato, non cambia nulla. In compenso per i dirigenti sanitari è saltata la norma, perché le regioni dicono si scrive con noi, tanto per essere chiara. Ecco, quindi mi dispiace dover registrare che questi sono i fatti. I fatti sono di chiacchiere e di arretramenti nella realtà. Mi dispiace 3 volte sottolinearlo, perché la questione delle partecipate è una questione fondamentale del nostro paese. Cottarelli diceva si possono risparmiare 2 miliardi di euro l'anno, invece così non risparmieremo niente per avere servizi meno efficaci. Sono saltati anche i criteri per l'onorabilità degli amministratori, che naturalmente sono nominati dai partiti per metterci i politici trombati, e li hanno fatti saltare. Gentiloni, ma perché li hai fatti saltare? Ma monta in groppa un po' di sana demagogia, sfida anche tu i partiti invece di stare muto nelle direzioni in cui Renzi e i suoi ti sparano addosso. Ma santo Dio, ma mi dispiace, ecco, io urlo, sì urlo. Non credo di venire meno ai miei doveri di giornalista al Sole 24 Ore finché sono qua, nell'urlare di fronte al fatto che i criteri di onorabilità degli amministratori saltano. Torniamo tra un minuto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Ed eccoci qui tornati in studio dopo la scaldata. Sì, come sempre inizio ad ascoltare e dicono quanto gridi. Sì, in effetti sono stupido, ancora mi sorprendo dal fatto che la politica possa deludermi. E qui con i compari Carlo Alberto e con Mario, che è collegato su Skype, siamo felici di riospitare però il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, Marco Kuchel. Buongiorno, buon sabato mattina, grazie di essere tornato. Buongiorno a tutti voi. Allora, io lo immaginavo, perché qualcosa si capiva dopo i primi incontri che avevate avuto. Questa settimana è venuta la notizia del fatto che lo sciopero annunciato della categoria è rientrato. Benissimo, io do atto che il regime trimestrale delle nuove comunicazioni IVA per quest'anno ancora non ci sarà, anche se poi per l'anno prossimo ci risiamo da punto a capo. E però, oltre a chiederle che cos'altro vi hanno detto al MEF per indurvi a ritirarlo, io ho un po' la sensazione che comunque il ministero dia per acquisito di considerarvi dei funzionari dello Stato. E allora a questo punto ci siamo detti con Carlo Alberto e Mario, facciamo secondo una riflessioncina aggiuntiva rispetto al viva lo sciopero che facevamo la settimana scorsa, perché Carlo Alberto, noi siamo preoccupati del fatto che solo dando una profonda ragionata su come è organizzata quella professione lo Stato non stravincerà considerando i funzionari. Non è così? Sono perfettamente d'accordo. Aspetti, Carlo Alberto. No, è così. Io sono preoccupato sia della riduzione in termini reali del reddito, sia del modello organizzativo, degli studi, sia del basso livello di investimento tecnologico. Cioè, abbiamo bisogno di una classe professionale che faccia questo mestiere molto più avanzata e non in ginocchio, piegata davanti ai diktat di quello che dovrebbe essere la propria controparte e finisce per essere il suo datore di lavoro occulto. Caro Presidente. Che dice... Sono perfettamente d'accordo con voi. Innanzitutto mi permetta una battuta iniziale: sono contento di aver contribuito alla vincita della sua scommessa, considerato che ho capito che lei aveva scommesso sul fatto che avremmo revocato lo sciopero, sì. Quindi sono contento di aver contribuito alla sua vincita. Ma al di là della battuta, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo cambiare il gioco delle regole, non possiamo essere solo funzionari dello Stato, come di fatto ormai da anni siamo funzionari, da quando è entrato il famoso fisco telematico. E abbiamo alzato la voce, diciamo, abbiamo alzato toni con la manifestazione del 14, con la prima proclamazione dello sciopero di categoria, proprio anche per questi motivi. Però non solo per questi motivi, e questo mi preme sottolinearlo, come avete fatto benissimo la scorsa settimana, uno dei motivi è anche di venire incontro alle esigenze delle imprese. Ah, certo. E su questo devo dire che abbiamo avuto un notevole appoggio e condivisione anche da alcune confederazioni di imprese come Confindustria, Conflavoro PMI, IRES Italia, che ci hanno appoggiato e hanno condiviso pienamente quello che erano le nostre finalità dello sciopero. Quindi per noi questo è già un risultato. Nello specifico noi abbiamo avuto incontri assidui con il MEF, con l'Agenzia delle Entrate, ci sono stati dei risultati concreti, se possiamo anche parlarne velocemente, tipo l'eliminazione della dichiarazione a blacklist, l'eliminazione comunicazione dei beni a soci, una forte riduzione delle sanzioni per gli errori e per i nuovi adempimenti, lo spesometro semestrale per il 2017 e anche un'apertura verso lo spesometro annuale dal 2018, perché c'è stato anche un impegno formale su questa cosa, l'eliminazione degli estremi dei contratti di locazione dei modelli interattivi, la possibilità di presentare modello S24 in forma cartacea, e potrei continuare. Quindi ci sono state molte aperture già in un primo momento di dialogo con l'agenzia e con il MEF soprattutto, e di fatto sono venuti incontro alle nostre richieste. Altri progetti sono in cantiere, tipo il tavolo di concertazione in merito all'antiriciclaggio, a cui molti colleghi tengono particolarmente, e noi abbiamo detto che dobbiamo risolvere anche quella questione, come un tavolo che prenderà vita a breve per determinare proprio il ruolo del commercialista nell'ambito fiscale, visto anche la prossima evoluzione del fisco digitale, fatturazione elettronica e quant'altro, che sicuramente stravolgerà quello che è la vita dei nostri studi e ci imporrà in qualche maniera un cambiamento interno. Ah, beh, ce lo aspettiamo. Vogliamo gestire, vogliamo guidare. Ce lo aspettiamo civile. Perché guarda che i dati che abbiamo dicono che spendete mediamente 3.000 euro all'anno, 4.000 euro, cioè una percentuale minore del 5% rispetto al reddito medio. Vuol dire che non state spendendo abbastanza in tecnologie, in software, in innovazione, quando sta arrivando questa onda potentissima della digitalizzazione. E non è che vi fate trovare impreparati di fronte a questo scenario? Non vogliamo farci trovare impreparati, come categoria abbiamo già fatto una riflessione interna anche con l'istituzione delle SAF, il nostro consiglio nazionale, istituto le SAF, scuola alta formazione, proprio per andare sulle specializzazioni, ma soprattutto vogliamo dialogare con il MEF e con l'agenzia per essere parte attiva del processo di cambiamento e non subirlo come di fatto abbiamo fatto fino ad oggi. Deve cambiare il rapporto, perché noi riteniamo che siamo un ingranaggio fondamentale della macchina fiscale in Italia, e quindi il rapporto con noi deve essere cambiato. Io a dire la verità, nella mia modestissima esperienza battendo l'Italia in convegni eccetera eccetera organizzati sia le reti Confindustria sia le artigiani commercianti che da commercialisti, ho un po' l'idea, sì, oltre alla collaborazione con lo Stato, il fisco digitale che vi disintermedia, però il problema secondo me è quello di adottare anche una prospettiva non nuova, perché lo dico io, ma perché lo dicono i processi travolgenti, le trasformazioni in atto, con la figura di un'offerta di studio pluriprofessionale in cui c'è, certo, il commercialista che fa evolvere la studio, così la vecchia figura, no, del commercialista piegato nel suo ufficietto quando gli danno una mano per i suoi clienti, piccole imprese, perché nel rapporto impresa intermediario bancario è lì che voi siete il vero, perché noi non abbiamo le banche in casa delle imprese storiche come in Germania, È il commercialista l'unico al quale il piccolo imprenditore dice non tutto, perché tutto non lo dice neanche a sua moglie e a se stesso, ma quel po' in più che alla banca è negato. Quindi, proprio perché l'offerta di finanza diventa sempre più digitale anch'essa, lì bisognerebbe costruire un ponte, Carlo Alberto. È così, e invece il modello di studio associato è poco diffuso in Italia. Fate conto che al nord è circa il 30% del totale degli studi, al sud non arriva al 10%, e questo ovviamente indebolisce anche l'aspetto organizzativo. Il commercialista dovrebbe essere lo strumento della riduzione delle asimmetrie informative fra impresa e banca, quindi abbassando anche il costo e la valutazione del rischio. Questo è un lavoro importante, al di là dell'aspetto burocratico della tecnologia, se vuole, di invio dei documenti. C'è un tema nel merito della capacità di leggere i dati, interpretarli in maniera digitale. Presidente, qui sopra ci stiamo muovendo, diamo una mano all'Italia a diventare moderna e quindi a rappresentare le imprese in maniera più trasparente davanti alle banche, altrimenti il flusso di credito e il flusso di capitale non arriva, perché si scontra contro la simmetria informativa di cui in parte voi siete anche, diciamo, complici, non dico responsabili. Sicuramente, ripeto, l'evoluzione deve essere fatta. Un tentativo è stato fatto con l'introduzione delle società da professionisti, l'ST, le famose STP. Purtroppo però la normativa è rimasta zoppa, quindi, perché non ha affrontato compiutamente il problema fiscale, il problema previdenziale di queste tipologie di società, e quindi di fatto sono costituite pochissime società di questo tipo, ma anche multidisciplinari. È chiaro che l'aggregazione e quindi la maggiore offerta deve essere portata avanti dagli studi professionali. È anche vero che non credo che questo possa risolvere poi l'erogazione da parte delle banche di crediti, di aperture di credito o quant'altro. Ecco, credo il sistema bancario sia un pochino ingessato e sia sotto gli occhi di tutti da tempo. Forse dobbiamo andare sotto altre forme di finanziamento, tipo mini bond, tipo come stati microcredito o crowdfunding, cioè queste nuove forme più che dei canali tradizionali di finanziamento tramite gli istituti bancari. Bene. Però ripeto, la categoria sta facendo queste valutazioni al suo interno. Ecco, valutazioni, noi abbiamo un po' la preoccupazione, ripeto, battendo parecchio l'Italia e a nostra volta poi stimolando le imprese a non fare solo il telefisco in ginocchio di fronte alla Orlandi per sapere la sua sovrana interpretazione delle norme fiscali, cosa che a me manda al manicomio, vedere le imprese in ginocchio di fronte al sovrano. Non spetterebbe alla Orlandi, tanto per cominciare, ecco, esatto, il ruolo di... Però esatto. Detto questo, quindi noi siccome critichiamo anche le imprese, diciamo guardate che vi dovete munire di strumenti e di ponti verso il credito, perché altrimenti non ci siamo. Cioè, a oggi la Lombardia è tra le regioni sviluppate italiane quella in cui rispetto al pre-2008 il gap di credito alle imprese resta ancora più elevato. Sto parlando della Lombardia, stiamo ancora a meno 28 punti rispetto al pre-2008, ripeto, impieghi alle imprese, perché il problema di cui parla Carlo Alberto, cioè la parete impervia di settimo grado nel valutare i rischi su alcune classi di impresa, è diventato, a fronte degli NPL bancari, un muro per muro le banche. Insuperabile. Oh, allora, su questo bisogna inventarsi cose, che e di questo è un pezzo della ripresa italiana. Noi continueremo a parlare con voi e anche a organizzare cose sul territorio. Intanto, grazie a Marco Cucca, al traffico, e torniamo tra un minuto. Della belva. Ho letto un SMS di un ascoltatore che dice: non è vero, non è vero, ci sono i criteri, non fare disinformazione. Caro Giannino, nel decreto delegato sulle partecipate ci sono i criteri. Forse ti sfugge, caro ascoltatore, di sicuro, perché non hai letto il testo aggiornato che hai provato ieri, che per esempio per tutte le partecipate dalle regioni c'è una nuova norma aggiunta nel decreto Madia, per il quale e fare eccezione e deroga a qualunque cosa c'è scritto in materia di fusioni, cessioni delle partecipate, per quello che riguarda tutte quelle delle regioni basta un atto motivato del Presidente della Regione. Secondo te, caro ascoltatore, sai, il Presidente della Regione aderirà allo scioglimento o farà il suo atto motivato e ci mette il timbro, lo manda al MEF e non cambia un cazzo? La seconda, perché quella norma si legge così: vi stanno prendendo per i fondelli. Mi dispiace dirlo, ma uno vede i testi e ha l'obbligo di dirlo. Poi se non vuole dirlo e fa le paginate di giornali dicendo cambia tutto, perfetto, poi però non cambia niente e ve la prendete con i giornalisti. Io leggo e quello che leggo non mi convince lo dico, siccome sono un coglione può essere che sbagli, ma me lo dovete dimostrare. Allora, nel mille proroghe, oltre alla questione taxi NCC, che poi si trascina dietro Uber, di cui parliamo dopo le 11, ne appare un'altra che in qualche misura appartiene, anzi, allo stesso ordine di problema politica. Incapace di capire l'economia digitale, incapace di apprezzare quello che già l'economia digitale ha fatto modificando l'offerta di servizi. Tu cur, direi, l'economia tu cur, non solo quella digitale. Però hai ragione. In questo caso ecco che nel mille proroghe compare a firma di parlamentari pugliesi, virgola, a nome di un'impresa pugliese, che poi questo è punto, perché c'è proprio, è diretta la cosa, della vecchia offerta del trasporto su gomma nel nostro paese, una norma che, bam, guarda caso, è mirata a un operatore della mobilità che ha innovato in questi anni, con milioni di passeggeri italiani che salgono sulle linee, il tipo di offerta, appunto perché anch'essa ha proposto il modello di app che consente una soddisfazione del cliente, delle componenti sia di costo, sia di trasporto punto punto che prima non esistevano, che di qualità dell'offerta che prima non c'era e che ovviamente alla vecchia offerta non piace, perché c'è un emendamento mirato contro Flixbus, che ha queste caratteristiche, appunto, visto che da metà del 2015 stiamo parlando qui di un'impresa che nasce, che offre sul mercato italiano da pochissimo, ha già trasportato più di 3 milioni di persone e che con rottura di scatola di tutto il mondo precedente di quel settore continua ad aprire nuove linee. Allora, è con noi per parlarne Andrea Incondi, che è il managing director di Flixbus Italia. Buon sabato mattina, grazie di essere con noi. Buon mattina anche a voi. Ciao Oscar. Qualunque cosa abbia detto che non corrisponda a verità mi corregga immediatamente, prego. Certo. Certo. Allora, ecco. Esattamente quello che hai appena detto tu. Il problema che oggi si proprio bisogna porsi è proprio, al di là della questione di Flixbus o no, è come viene tutelata la certezza del diritto in Italia. Ma spieghiamo innanzitutto questa norma che compare nel testo, poi vediamo se rimarrà fino alla fine, noi ci batteremo contro ovviamente. Come e perché vi colpisce, allora, e colpisce la vostra particolare offerta? Viene inserita appunto e agisce sulle dinamiche del modello organizzativo che caratterizza appunto Flixbus e i partner con cui opera le tratte. Come ci eravamo già discussi nella precedente trasmissione, Flixbus opera con questo modello di business innovativo, ossia da una parte Flixbus si occupa di tutto quello che riguarda la pianificazione della rete, la parte commerciale, il marketing, la vendita, mentre il servizio operativo viene svolto da aziende di autobus sul territorio. Questo tipo di modello opera all'interno dell'ordinamento previsto, noi otteniamo le autorizzazioni in riunione di impresa con le nostre aziende partner e operiamo seguendo quello che proprio la normativa prevede. Quello che si va proprio ad attaccare è proprio da questa riunione di imprese, quindi da una parte c'era prima un ordinamento ben definito che definiva appunto le regole del gioco, definiva come poter partecipare e noi le abbiamo applicate meticolosamente. Quello che invece sta accadendo oggi è che proprio si va ad incidere su questo raggruppamento, su questa riunione di impresa, e che quindi si vuole far saltare proprio questo tipo di modello. Perché attraverso la collaborazione di questa cinquantina di altre aziende italiane sul territorio, generando ottimizzazione di rete e innovazione nella qualità dell'offerta, siete arrivati a collegare 120 città e ovviamente a chi è fuori da questo sta roba non piace, per questo certo. Io martella. Certo. Però solo a livello europeo c'è, cioè, esatto, 100.000 esatto. Destinazioni, è molto interessante perché rompe con la frammentazione tipica. Perfetto. Del territorio, del politico che con le prebende finanzia l'azienda di riferimento e che invece ovviamente è stata sconvolta dai flussi di mobilità che sono quelli a cui guarda un'azienda come Flixbus. Dico bene, Presidente? Esatto, 50 piccole e medie imprese italiane che oggi lavorano con noi, che hanno avuto la possibilità di entrare all'interno di un settore al quale non sarebbero potuti entrare da soli, ma attraverso appunto un player come Flixbus, che hanno potuto ritornare ad assumere, che hanno potuto ritornare ad investire, hanno potuto diversificare la loro capacità produttiva, i loro investimenti, che hanno, faccio proprio dei numeri, nell'ultimo anno sono state assunte quasi circa 1000 persone tra Flixbus e i propri partner in Italia. 3 milioni di giovani hanno scelto di viaggiare con noi e hanno avuto questa possibilità di farlo. Tutto questo senza nessun tipo di investimento pubblico. È proprio questo il pericolo maggiore che noi oggi stiamo affrontando. Anche perché, insomma, non è un mistero, né il grande progetto, ne parlammo con Mazzoncini qualche mese fa, in cui Ferrovie dello Stato vuole rilevare anche più ferreo attualmente di competenza regionale o mista degli enti locali, uno, due, vuole espandersi ulteriormente nella gomma in Italia e negli altri paesi europei, esperienze come la vostra rompono le scatole sia alle vecchie società consortili o direttamente partecipate dagli enti locali, e in cui finanziamenti a bocca di barile, sia a questo disegno più ampio di cui anche l'acquisizione dell'ANAS è un pezzo fondamentale. Tra l'altro in questa settimana è esilarante per me vedere ministri come Del Rio in direzione, certo. Sparare a zero contro la quotazione di FS. La quotazione di FS è fatta così, cioè ANAS più FS con i trasferimenti pubblici del servizio universale è compresa la rete, la proprietà di RFI è compreso il segmento invece aperto alla concorrenza, non va bene perché è una misura anticoncorrenziale piena di sussidi incrociati, ma quel disegno è nato da Renzi. Adesso Del Rio va alla tribuna e Padoan presenta, gli dice: tu non devi andare avanti perché questa roba il governo Gentiloni non va avanti, e che sta la scritta Gentiloni, ma non scherziamo. Ecco, a me queste disinvolture non piacciono, ripeto, ne parlo perché è esattamente nel settore di offerta su cui insiste Flixbus, che anche per questo sta sulle scatole ai concorrenti, in questo caso ai concorrenti pugliesi, di cui quei quattro emendatori portano le stigma. Purtuttavia voglio specificare che è uno dei pochi esempi in cui finalmente, quando invitiamo a fare sistema, a fare rete, qui stiamo esattamente facendo questo, cioè mettendo a sistema piccole e medie imprese usando tecnologie e coordinamenti comuni. È veramente quello che abbiamo insistito per anni come soluzione per favorire la crescita delle piccole e medie imprese tramite specializzazione funzionale. Cioè chi sa fare bene il marketing, chi sa fare bene la tecnologia, lo faccia, e gli altri facciano benissimo il lavoro di logistica e di operatività. Ma Incondi, direi che non siete abbastanza bravi a essere lobby. Di solito dicono che questo tipo di imprese sono i potenti lobbisti. E invece no. Se si vuole riformare il sistema dei trasporti, noi siamo anche più che d'accordo. Sediamoci tutti intorno ad un tavolo a luce del sole e discutiamone. Ma se si vuole cambiare le regole in corsa con un sotterfugio, e quindi si va proprio a forzare quella che è la natura stessa del milleproroghe, non mi pare proprio che si vada in questa direzione. Perché? Perché se lo si fa, perché se ci si siede attorno a un tavolo e si ha paura di un confronto, di una discussione aperta, si ha paura di rendersi conto che esiste la concorrenza, il libero per mercato, e che il mercato proprio prema chi innova, chi fa rete, chi porta innovazione. Ma chi non ha idea di cosa significa innovare o investire o fare rete, allora cerca di fermare un po' il cambiamento, come detto voi, alla vecchia maniera. Sì, direi proprio alla vecchia maniera. Allora, intanto grazie Andrea Incondi, io seguirò anche nella mia trasmissione settimanale l'evoluzione, poi man mano che mille proprio va avanti, di questo tipo di emendamenti ad aziendam e soprattutto contro l'innovazione e contro la concorrenza di privati rispetto allo Stato che perde in questo settore e che vuole tornare protagonista mettendo sussidi incrociati al servizio universale in attività invece che sono riporte alla concorrenza. Questa è la cosa inaccettabile se lo Stato vuole fare questo. Allora, grazie Andrea Incondi. E adesso però, in tre minuti, cari compari, io inizierei da Mario. Io vi chiedo la vostra opinione subito per il tema che poi riprenderemo in mano sul sharing, e lo faremo con avendo ospiti Foodora, che avevamo come ospiti a dicembre quando esplose la loro crisi dei drivers a Torino. Però ditemi cosa pensate intanto della cosa taxi NCC e Uber che è in corso. Mario, che impressione ti fa? Ma io sto dialogando molto con i tassisti, perché è un periodo in cui viaggio molto in taxi a Milano, nello specifico, trovo molta ragionevolezza, o forse sono stato fortunato, la disponibilità a discutere, a dialogare, anche una certa tendenza ad accettare un diverso posizionamento di mercato di Uber, non di Uber Pop ovviamente, perché quello è un concetto che sta completamente altrove, bisognerebbe discuterne, però io dico, alla fine si è deciso di non decidere, quindi questo è un vacuum normativo, mentre invece le organizzazioni sindacali dei tassisti probabilmente erano state rassicurate sul fatto che sarebbero stati interventi, come dire, unidirezionali, ma l'essenza del discorso è che si è deciso di non decidere, quindi il mille proroghe, che è un prodotto tipico italiano, no? Proprio come quelli della gastronomia, sì. Che è l'essenza della... Quella è l'eccellenza, questa non è l'eccellenza, esatto. Esatto, questa è la deficienza di questo paese. Alla fine non si prende posizione. Anche la vicenda di Flixbus, che io non conoscevo, è abbastanza sconcertante. Cioè, mi ricorda il modo in cui è stata soffocata nella culla Arena Wales. Mi pare che abbiamo corsi e ricorsi storici in questo paese. Esattamente, la differenza è che loro sono più avanti, mentre per strangolare Arena bastava veramente molto poco. Il problema è che secondo me, fuori di prenderli in giro, io ricordo tutti che l'agenzia, cioè l'autorità per la concorrenza, ha posto ufficialmente il problema di superare le vecchie norme della legge quadro del 92, taxi, NCC, nel 2006, sono 11 anni che l'autorità per la concorrenza chiede alla politica di aprirsi alle nuove offerte che non hanno le stesse caratteristiche come quel servizio taxi. Uber non ha le stesse caratteristiche né sul versante della domanda né sul versante dell'offerta. Sottolineiamolo mille volte che è così. E da allora, voglio dire, il sindaco di Milano all'epoca, Pisapia, incontrò i tassisti 2 anni e mezzo fa, nel 2015, dicendo: tra 3 mesi interveniamo. Ecco qua. E invece, caro Carlo Alberto, ti dico che la colpa purtroppo è della politica. Hai ragione Mario, non si tratta di giustificare tassisti o Uber, si tratta di prendersi le responsabilità. E di cui torniamo vedendo chi nella sharing, però presa la botta e al centro di una polemica, ha fatto una riflessione e ce la viene a spiegare, cioè quelli di Foodora, che sono un altro pezzo di questa economia della condivisione per portarvi il cibo quando volete, cosa volete, a casa quando volete. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. Eccoci tornati qui alle 11:06:53 con i compari Conti da Belva, collegato con Skype abbiamo Mario. Mario, ci sei? Sì. Eccoci qua. Brevi lo qua. Sì, sintetico, come sempre. Ficcante. È un laconico spartano. Sì. Meno di così, ma c'era anche almeno l'accento. Ma io per così ti voglio bene, ma c'è poco da fare. E Carlo Alberto. Carlo Alberto. Sì. Allora, per l'ascoltatrice che dice urli come sempre solo contro la sinistra, non urli contro Berlusconi, cara ascoltatrice, documentati un pochino, troverai che ho una taglia sulla testa di Berlusconi, mi cacciò da una trasmissione di Rai 1, ho criticato da tempo immemorabile, da anche il 2009, da quando stavo qua, da questi microfoni, quello che era sempre più deludente di Berlusconi. Nel 2010-2011 problemi con Tremonti, Gramis, quindi no, cara ascoltatrice, è un riflesso pavloviano il tuo, cioè di chi pensa che i conduttori, nel mio caso, ma vale per tanti altri, siano a senso unico propagandisti. N.O. No, proprio ho le prove provate lunghe e anche cicatrici. Da questo punto di vista ti ricordo che ho anche vinto in tribunale un licenziamento disciplinare libero e così via, quindi insomma. Detto questo, invece, sentiamo come la pensate alcuni di voi, scegliamo a campione per così dire sulla questione Uber Taxi, in cui avete chiamato parecchi. Cominciamo con Alessandro da Milano. Alessandro. Giannino, buongiorno. Grazie mille. Prego. Adesso io le farò una battuta. Io in questo momento non sto scioperando, ma sono in riposo. A parte questo, io ho adottato una forma un po' giapponese, per cui ho portato delle persone senza corrispettivo, anziani, la mia parte, la mia goccia, per far capire alla gente che non siamo dei Dracula, dei vampiri o cose del genere. Uber è la santità, non siamo dei santi neanche noi, come tutti i consorzi umani, però il concetto questo, semplice, permettere ancora che non ci sia regolarità nell'esercizio del servizio pubblico non di linea, i taxi e gli NCC, va a portare a fare, scusi ma ci sono i vigili e sto guidando, devo abbassare il telefono, certo, mi perdoni, certo. da buon italiano. Se interviene per la legalità, giustamente la comprendiamo. Prego, prego. Mi perdoni, ma purtroppo ho il cambio automatico, però, per la mia parziale giustificazione. E detto questo, non, No, ah, perché c'è una manifestazione, pensi un po'. Pensa un po'. Non è di tassisti, eh. Detto questo, e chiudo subito, se no le faccio perdere troppo tempo. Continuare su questa strada porta noi a dipingerci sempre con la col solito cliché. Sono d'accordo, sono Uber d'accordo. A fare le proprie cose e non fa beneficenza, perché chi sta pagando in questi momenti, chi sta pagando in questi momenti usando Uber il triplo o il quadruplo, sì, è certo. La dimostrazione che non hai la faccia di un padre di famiglia davanti e gli dici: ehi signore, ma questo non cambia, perché neanche voi, anche per il taxi lo prende il poco più del 10% secondo i dati ufficiali degli italiani, perché costa troppo. Il problema non è questo, ma io sono d'accordo con voi, la strategia del rinvio della politica fa emergere il peggio dei cliché. Sono moltissimo d'accordo con voi. Io per primo dico che la politica seria, ripeto, distinguendo condizioni di domande e offerte che sono diverse, non siete concorrenti, questo è il piccolo problema, capisco che per voi è inaccettabile, ma perché è inaccettabile? Perché la politica ha alimentato il mercato secondario a prezzi altissimi delle licenze, facendo finta che non derivino dalle proprie scelte, ed è quello il punto che va affrontato, se vuoi aprire formalmente al cambiamento, invece che far finta di dire no, vi prometto che torniamo alle norme del 92, come dire, vi prometto che torniamo alla preistoria. Mi perdoni, la piccolissima replica, perché ha altro da fare che parlare con me. Comunque resta il fatto che la politica deve trovare delle forme di colloquio con i lavoratori. Perfetto. Perché il lavoratore non è più Ciputi, Ciputi, ma tanto ma più è Alessandro, che voi siete autonomi, ciascuno dei quali poi ha fatto una scelta. Siamo completamente diversi, guarda, io su questo da lavoratore autonomo lo dico, quindi mi dispiace, questa cosa del mille proroghe è purtroppo eterna il peggio da parte della politica. Quando io ricordo che il sindaco di Milano vi disse 2 anni e mezzo fa, 3 mesi abbiamo risolto, appunto si è visto come... Cioè, ho detto, il vostro mestiere deve crescere, c'è più spazio per chi fa questo mestiere per una mobilità intelligente e ben distribuita, quindi il problema è allargare la torta, esatto. Ridurre il trasporto privato, metropolitano, e ampliare quello pubblico con voi attori fondamentali. Comunque. Certo, non corporativi, non a difendere rendite, ma a tifare per innovazione. Alessandro, possiamo convergere su questo? No, ma io credo che noi, tra persone ragionevoli, Alessandro ha fatto un intervento di una ragionevolezza assoluta, io sono con questo, lo ringrazio. Nicolò da Pistoia, come la pensa Nicolò? Allora, io porto la testimonianza di come funziona benissimo Uber a Sydney. Va bene, io sono stato 20 giorni, e ho chiamato il taxi regolare per Natale, dopo un'ora non era ancora lì, mentre Uber nel giro di 10 minuti è sempre presente, quindi, e poi a costi dimezzati. Poi tra l'altro c'è la parte umana che è molto interessante, perché chi guida, chi fa Uber può essere il musicista che magari alla stagione ferma, no, ma soprattutto studente. Ripeto, su Uber chi sceglie ha la possibilità, nello scegliere, di guardarsi il track record storico di chi sta scegliendo, con certo. I giudizi di soddisfazione del cliente, sa prima il prezzo della tratta che non corre. Ho detto è meglio e peggio, dico che certo. Per questo è proprio diversa la caratteristica dell'offerta e della domanda, perché appunto nel taxi non è così, il taxi ha i turni amministrati fissi, la tariffa amministrata eccetera eccetera, quindi è ovvio, lui imbarca, è costretto a imbarcare chi gli capita per caso. Certo. E io non posso dire al tassista, posso scendere, ma lì invece prima giudico. Quindi... Ma non solo, ma chi sale in taxi è tracciato, perché il pagamento viene effettuato prima con la carta di credito, per cui si sa benissimo chi sale. Lo so, questo naturalmente per dire, no, ma loro non pagano. Però questo succede anche con i taxisti ultimamente, con le applicazioni, penso mai taxi che uso sistematicamente e che consente, guarda il caso, di fare le stesse cose che si fanno con le altre app, quindi scegliendosi il tassista da un certo, e il tassista sa che sale una persona per bene, con reputazione, perché così come noi valutiamo loro valutano noi, quindi vuol dire che la tecnologia non è nemica dei taxi, chi la sta sposando sta avendo maggiore traffico e maggiore qualità, e spesso viene scelto rispetto agli altri, proprio perché offre questa maggiore qualità. Devo dire anche che non è un merito di nessuno, ma capita sempre quando ci sono i processi di convergenza a seguito di rotture, possono essere organizzative, tecnologiche, eccetera. È la storia dell'evoluzione dell'offerta rispetto alla domanda, che crea domanda aggiuntiva, non la stessa torta. Il fatto che l'utilizzo sia delle piattaforme che in maniera quindi coerente a ciò che puoi fare con un device tecnologico avanzato come gli smartphone e la geolocalizzazione avviene nel segmento dei taxi, perché perché sono arrivate questo tipo di offerte. Quindi, ma perché questo è il meccanismo. Cari ascoltatori, non vi dimenticate che l'apparentemente invalicabile muro che si opponeva alle televisioni commerciali private è stato superato perché un biellese si fece denunciare da solo due volte alla magistratura, prima con la televisione via cavo, poi non via cavo, eccetera eccetera, e in tre anni di battaglia e di sentenze Telebiella diede la spallata prima sul cavo, poi sull'etere, a ciò che sembrava impossibile. Se esistono le televisioni commerciali e non c'è solo la RAI, si deve a questo, altrimenti avremmo ancora la RAI pubblica, rete unica di un solo partito, monoscopio in bianco e nero. Guardate che nell'offerta di servizi di trasporto punto urbano è la stessa cosa come tipo di opposizione. Non sto parlando dei tassisti, della politica che non capisce che cos'è l'evoluzione dell'offerta dei servizi e anche della domanda aggiuntiva che essa crea. Comunque i nostri ascoltatori si rivelano, caro Mario e caro Carlo Alberto, ragionevoli da comunque la pensino. Non è evidentemente merito nostro, però mi colpisce molto favorevolmente rispetto ad altre trasmissioni dove si sentono urla. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Ma hai capito il suo caso? Allora, cari ascoltatori, e dopo questa parte in cui abbiamo visto cosa c'è nel mille proroghe su Flixbus, un attacco, cosa non c'è nel mille proroghe su ciò che era stato ai tassisti e a NCC, e cioè una omissione, come dire, esatto, un lavarsene le mani, un'incapacità di fare il mestiere della politica, che è dare regole chiare e pensare al beneficio per i consumatori e per chi deve investire. Questo è quello che manca. È possibile che la politica non capisca che la risposta da dare non è quella torniamo al 92, verificheremo l'obbligo di tornare in rimessa per gli NCC per a ogni servizio. Ma è spostarci al 2020, dove ci sarà un modello di mobilità urbana completamente diverso. Stanno arrivando le auto a guida software e noi siamo qua con l'autorimessa. Ma allora, di come... esatto. A proposito, è l'autorimessa, pure. Anzi, telefono a linea fissa, possibilmente di bachelite nero. Con la signorina, con che compone il numero e inserisce il jack. Ma abbiamo disintermediato. Le centraline elettromeccaniche. Esatto. Con i jack, come diceva Carlo Alberto, i dischi meccanici combinatori. Abbiamo... Ma sì, ma è un paese che guarda nello specchietto retrovisore, esatto. Non solo dei taxi. Per cui mi pare che tutto sia coerente con l'immagine complessiva di un paese che declina. No, questo però, Mario, tu continui a non capire proprio. Non ti ostini, è colpa dei tedeschi. Ma dai, cioè, è colpa dei tedeschi. Bisogna andare, iscriviamoci tutti a un corso in una certa università. Impareremo come fare, lo ricordo a tutti, i cappottini di abete. suonati la testa, vabbè. Allora, lo so, è un messaggio per pochi, ma vi garantisco tutti capiscono, quelli che devono capire di chi stiamo parlando, ironizzando, per carità, noi non siamo dotati del suo potere di leggere nei millenni di chi scrive gli hadith del profeta applicato a se stesso. Ma come fate ad andargli dietro a uno così? Io quando leggo quello che scrive mi impiego in due. È voluto, cari ascoltatori, voi che non lo state capendo, stiamo parlando di uno dei più grandi intellettuali che la storia abbia regalato a questo paese, un finissimo esteta, seguace di Gabriele D'Annunzio sulle spiagge pescaresi, e che però illumina tutti i suoi adepti di pillole sull'evoluzione del sistema intergalattico monetario mondiale. Oscar, torna su, tra noi. No, torna, vabbè, qui, scusa, torna qua. Lo so, però io non ce la faccio. Non ce l'ha fatto perché giustamente sono costretto, non degno. Scusami, ma io dico sempre falliremo, ma almeno divertendoci. No, questo è parte del disegno. Io sono assolutamente divertitissimo. Allora, detto questo, torniamo al punto. Gli ascoltatori si ricorderanno che noi, quando parlammo della precarizzazione del mercato del lavoro e problema dei voucher, in una puntata che poi fu anche replicata tra Natale e Capodanno, ci occupammo di quello che era successo a Torino con i drivers di Foodora, un'azienda che in Europa cambia anche in quel caso, coprendo una offerta aggiuntiva, è una domanda aggiuntiva, attraverso un meccanismo di organizzazione di chi, dei drivers, di chi consegna cibo a casa con scelto su app in via digitale da chi ne lo vuole consegnato 24 ore al giorno, quando vuole e cosa vuole. E a Torino succede un problema, perché i drivers dicono no, a queste condizioni noi non ci siamo. Il giornale montano la campagna, dicono ah, questo è sfruttamento. Una parte della politica, è staccato giustamente dal suo loro punto di vista, approfitta per dire ah, questa sarebbe la sharing economy, la nuova tecnologia. No, questo è lo sfruttamento in condizioni estreme, e chi sostiene questo modello fa il male di tutti e non solo di chi lo accetta per un bisogno. Allora abbiamo voluto apposta chiedere, io mi sono confrontato con loro per dire quello che è avvenuto allora, che sicuramente non è stata una buona cosa per Foodora, ecco, almeno questa è la mia impressione da comunicatore, non lo è stato per niente. A distanza di tempo, quali novità organizzative, che riflessione avete fatto, come vanno le cose, eccetera eccetera, che cosa abbiamo imparato, ecco, da quella vicenda torinese? Naturalmente Foodora mica è solo a Torino. Allora, per parlarne e per affrontare una delle obiezioni in radice alla sharing economy, perché anche verso Uber si dice è sfruttamento di gente che non offre nessuna garanzia, eccetera eccetera eccetera, abbiamo con noi Gianluca Cocco, che è appunto co-amministratore delegato di Foodora Italia. Grazie di essere tornati con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa quella vicenda vi ha portato a riflettere e a fare? Allora, innanzitutto vorrei fare un chiarimento, nel senso che non si tratta di sharing economy, ma esatto, di on demand economy. Esatto. Cosa vuol dire on demand economy? Fondamentalmente, come giustamente lei diceva, che Foodora, attraverso l'innovazione permessa dalla tecnologia, ha potuto incrociare da una parte i desideri dei consumatori, sempre più esigenti e al tempo stesso con meno tempo per cucinare. Dall'altra parte l'offerta dei ristoranti, che hanno spesso cucine in grado di realizzare più ordini rispetto a quelli generati dai coperti in sala, e infine, come giustamente lei diceva, la disponibilità dei rider, ovvero dei nostri fattorini, per lo più alla ricerca di un'attività caratterizzata da modalità, tempi e disponibilità flessibili, che si adatti alle proprie esigenze, ad esempio di studio o di altra attività primaria. Esatto. Come lei giustamente diceva, a ottobre probabilmente è montato un caso mediatico, quando nella realtà il nostro setup aziendale, frutto di uno studio di diversi mesi, circa 2 anni fa, quando siamo arrivati in Italia lanciando a Milano, e che ci ha permesso di scegliere come tipologia contrattuale appunto quella dei tanto bistrattati, ma in realtà molto efficaci in questa realtà, co-co-co, cioè collaboratori continuati continuativi, che ci permette, ad esempio, cosa che non è mai trapelata durante il caso mediatico, di contribuire con contributi INPS per questi fattorini, piuttosto che con un'assicurazione INAIL per gli infortuni sul lavoro. Il tutto chiaramente totalmente finanziato e pagato di Foodora. Cioè, per essere chiaro, con i contratti di collaborazione si copre di più rispetto ai voucher, che invece sono praticamente solo in, questo è il punto, no? No, noi sicuramente, oltre a questo, quindi a garantire, a trovare un setup contrattuale che permettesse di avere le maggiori tutele per quello che comunque è il cuore pulsante della nostra azienda, ovvero i nostri rider, abbiamo anche dotato gli stessi di un'assicurazione sempre a carico di Foodora, ad esempio per danni contro terzi, e non è propriamente, diciamo, in questo ambito una misura utilizzata da tutti quanti i player del settore. E poi vabbè, ci sono state sempre nel caso mediatico diverse cose che sono state travisate. Ma fatto il caso mediatico, avete cambiato qualcosa o no? Allora, fondamentalmente quello che dal caso mediatico abbiamo imparato è sicuramente che gli aspetti comunicativi con la flotta, quindi il fatto di mantenere un canale comunicativo aperto con i ragazzi, primo, che sono tutti i giorni in strada a consegnare i pasti richiesti dai clienti e preparati dai ristoranti, è fondamentale, perché molto di quello che è successo era dovuto, essendo comunque un'azienda molto giovane, anche a un gap comunicativo. Era dovuto al fatto che molte radio apprendevano, non da voi, che le condizioni praticate in altre città, perché no, non spetta a loro sapere che nello sviluppo evolutivo della trasformazione, certo, dei contratti, man mano che aprite nelle città e misurate qual è l'andamento della domanda e dell'offerta reale e come organizzarla, perché tanto per dirla, i riders non sono obbligati a rispondere alla chiamata, questo significa che per il pianificatore, esatto, aziendale, esatto, è un po' complicato, perché magari un sabato sera va incontro a una raffica di no e il problema è che se non consegna poi salta al punto. Ma no, detto questo, loro non erano tenuti a saperlo, non lo sapevano, lo sono venuti a sapere e si sono incazzati, questo è il punto, perché vi hanno, a quel punto hanno detto, allora siete in malafede, a chi in un modo e a chi in un altro, no? No, esattamente, una delle prime cose che sicuramente non era traferata, come giustamente le sottolineava e vorrei sottolineare anch'io, è il fatto che comunque con questa tipologia di contratto sono i driver stessi che decidono quando dare la loro disponibilità, quando vorrei lavorare oppure no, e in questo modo che riescono a integrare questo lavoro con un'occupazione primaria, che può essere generalmente nel profilo medio della nostra flotta, è lo studio. E quindi informazione, sì, avete un po' cambiato la politica di informazione. Direi, se capisco bene, coordinamento, informazione, tutela assicurativa, maggiore trasparenza. Ecco, c'è da imparare a fare organizzazione aziendale moderna, non basta nascondersi dietro alla tecnologia delle app. Le aziende sono ben di più che uno strato di coordinamento tecnologico. No, ma in quel caso poi l'elemento umano è un aspetto è essenziale, anche perché la componente di servizio, stiamo parlando di una persona che deve portare cibo a un'altra persona, dei gesti se vuoi più storici, no? Quindi invito gli amici di Foodora a tener conto di questi aspetti, Gianluca, mi raccomando, di componente. No, ad esempio, prego. Abbiamo introdotto sempre a seguito della vicenda un contributo da parte di Foodora per quanto riguarda le spese di riparazione e manutenzione delle biciclette, di cui ci facciamo carico per il 50%. Però a me piace dare ai nostri ascoltatori l'idea che, come vedete, le crisi servono per imparare. Nessuno è nato imparato e le imprese si trasformano grazie anche a evidenze come queste. Però c'è un punto anche qua che va chiarito, perché molti ci dicono: ah, questa cosa però è una concorrenza impropria alla ristorazione tradizionale, eccetera. Scherziamo. È il contrario, perché è un canale di offerta aggiuntiva, non è la torta, esatto, di prima che si divide. Allora facciamoci dire da un ristoratore, titolare della fassoneria di Torino, vorrei essere lì in questo momento, va bene, ma invece siamo in studio. Non sei diventato vegano anche tu? Guarda, no, quando vado a Pescara magari, ma prima no. Stamattina proprio. Però abbattetemi prima. Fammi sentire. Non mi fate prendere prigioniero, vi consiglio, cari compagni, di abbattermi prima, perché sennò voglio vedere poi chi sopravvive. Tu ce l'hai l'anello con la capsula di cianuro, che vedo che tu hai sempre degli anelli piuttosto ampi, per cui penso che abbiano il doppio fondo. Ma però prima di farlo prendere io, può essere che rischi di darlo a qualcun altro. Allora, abbiamo con noi Fabrizio Bocca, appunto ristoratore titolare della fassoneria di Torino, che ci dice: ma servizi come quello di Foodora sono una concorrenza impropria al ristoratore tradizionale che accoglie o cerca di invitare i clienti, anche lui con le nuove tecnologie, con le valutazioni di soddisfazione del pubblico in maniera digitale, eccetera eccetera, ma sono concorrenza impropria o sono una soluzione a come dare offerta aggiuntiva? Bocca, buon pomeriggio, intanto buon sabato e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Ma sì, io posso portare quella che è la mia esperienza. Io in realtà sono socio al 50% della fassoneria con la Compra, così racconto anche un po' che cos'è questa fassoneria. La Compra è la più grossa cooperativa di allevatori di razza piemontese, allevatori che noi abbiamo appunto definito di razza perché coltivano uno stile allevatoriale rigoroso e fedele al modello delle crescine in cui sono nati e cresciuti, e che quindi ci permettono di avere un prodotto sulle nostre tavole che è di altissima qualità a un prezzo estremamente competitivo. Quindi il nostro Picco un ristorante è un vero e proprio progetto, esatto, che mira a espandersi in tutta Italia col progetto franchise. Possiamo dire che è la risposta italiana a McDonald's e all'hamburger degradato, è l'hamburger di razza, come viva, lo chiamate. Viva la fassona, chiunque la conosca si perde un pezzo di paradiso in terra. È un'eccellenza piemontese, piemontese che noi vogliamo portare giro per l'Italia, e ci stiamo riuscendo, e Foodora è stato uno dei fattori che ci ha permesso di avere successo in questo progetto. Quindi non è un'aggiunta, non è una assolutamente forma. Assolutamente sì. Devo dire che appunto noi adesso siamo in procinto di aprire nuove fassonerie in giro per l'Italia. E Foodora è stato un partner che ci ha accompagnato fin dal suo ingresso sul mercato di Torino, dandoci l'opportunità sia di raggiungere nuovi clienti che sono venuti a conoscere il nostro prodotto e quindi anche tutto il progetto che c'era dietro grazie ai fattorini di Foodora, e sia di aumentare anche le frequenze di acquisto dei nostri clienti abituali. Certo. Che invece che venirci a trovare, Ogni volta ripetutamente, però ogni tanto stanno a casa e comodamente si possono gustare un nostro hamburger, una battuta al coltello. Caro Bocca, a me sembra dovrebbe essere autoevidente, no? A chi disegna le regole di questo mercato o a chi ne scrive, magari professori di filosofia che ne scrivono scandalizzati, ma secondo me non hanno proprio l'idea che cos'è l'economia vista dal punto di vista della domanda, cioè coltivare la domanda è uno dei driver. Foodora è l'e-commerce del cibo preparato espresso, di cosa stiamo parlando? Cioè, il delivery è una... È una tendenza di nuovo abbastanza internazionale, quindi la possibilità di consumare un pasto a casa preparato. Specialmente il vostro, che è un piatto consumabile a casa. Ma non possiamo parlare di fassona a quest'ora. Non possiamo proprio. No, invece è importantissimo perché educa a un consumo consapevole. Stiamo parlando di una filiera molto controllata. Scusami se faccio un po' di pubblicità per la nostra eccellenza del Made in Italy, ma è importante far capire che a volte la tecnologia aiuta la tradizione, e questo è il caso proprio specifico. Ma è proprio questo. È la difesa. Mica si tratta di negare il passato, anzi lo consentiamo, perdonate, aumentando il suo mercato e quindi gli interlocutori che consentono anche un utile di ritorno, diamo più risorse a chi vuole investire in tecnologia avanzata per preservarla, la tradizione e le sue caratteristiche di eccellenza, per cui bisogna spendere di più per bestie di quel tipo e per quella qualità di quel tipo, per la salute che bisogna garantire. È esattamente così. Allora, grazie a Gianluca Cocco anche per aver accettato di dirci sì, sbagliando si impara, anche noi, anche se i giornalisti ci hanno messo del proprio. E grazie a Fabrizio Bocca. Grazie, e adesso vado a prendere un dito di carpano per rimanere nella mia Torino. Torniamo noi con i nostri ascoltatori tra qualche minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ragazzi, in questo momento vi state perdendo un Carlo Alberto di tipo felliniano, cioè sta facendo esercizi ginnici. L'avevamo scelta insieme questa canzoncina. Esattamente. Questa musica eccellente. Sì, ma io non sapevo che ti presentavi con i costumi novecenteschi a scellare con le righe bianche e nere. Che testimoni la tua fede. Basta, alziamo ancora un po' la musica, sennò poi... Eccoci. Cascieri del Milan, cosa stai dicendo? Dai. Meno male, va. Almeno ogni tanto mi capita un juventino. Ogni tanto che dietro immediatamente si sbracciano. Claudia invece è la nostra gobbetta qua di redazione. Non dire gobbetta. Che devo dire? È una miss certificata Juventus, che ogni anno chiedono sia a bordo campo perché i giocatori siano motivati da altro che semplici soldi. E invece noi non la cediamo. Radio 24 la fa rimanere qua in redazione. Allora ragazzi, noi abbiamo messo questa area felliniana perché questa settimana capita una cosa che un po' ci stupisce, e allora ci siamo detti, chiediamo al nostro Udo Gumpel di spiegarcela. Udo, innanzitutto come stai? Buon sabato mattina. Sto molto bene, sto andando verso Perugia, nella terra che io quasi amo di più in Italia, Umbria, a trovare un grande produttore d'olio di oliva, anche uno dei migliori in assoluto. Bene. Perciò un caro bravissimo, amico. Bravissimo. Ma tu ci devi spiegare perché è esplosa la notizia per la quale i francesi di Peugeot Citroën hanno in realtà, come si è capito adesso, ben avanzato i loro proposti di rilevare la Opel, che è dell'americana General Motors. La Germania esplode ed è sembrato che fosse l'Italia. Perché? Secondo me è una svista vostra, perché io che seguo la stampa tedesca quotidianamente non c'è nessuna esplosione. Scusate, non c'è nessuna esplosione. Questo forse una visione che magari riporta qualche collega nostro dalla Germania, perché gli fa piacere a qualche caporedattore di vedere le cose così, ma non stanno affatto così le cose, perché la Germania non ha nel passato opposto resistenza a vendite di aziende molto più importanti ad altre aziende estere. Voglio solo ricordare la telefonia mobile, che voi in Italia la conoscevate qua come Omnitel, che era in Germania. Sì, esatto, bravo, ma vedo che tu sei proprio preparato, la tua laurea in economia, oddio, adesso l'ho detta, e comunque sei preparatissimo. Fai bene a ricordarlo, perché questo va ricordato giustamente. No, ma io non lo dico per ironia, ti assicuro che ce l'ho presente ogni giorno della mia vita. Oh madonna, sì, che errore hai fatto là, perché sei molto più bravo di 99% degli economisti in economia. Posso confermare, Google, confermare. Comunque è giusto pagare, ma comunque era Mannesmann. Allora, no, la Mannesmann che all'epoca fu comprata dalla Vodafone, ed era veramente la unica azienda di telefonia tedesca privata, e che poi la Mannesmann la conosciamo in Italia, anzi chi ha studiato un po' i casi dell'Italia, era l'azienda che trasportava i fusti contenenti il reattore dell'ICMESA, esatto. Che cosa l'ICMESA? Alla fabbrica che produceva a Seveso, esatto. E allora Udo, era per Udo, qui devi fare il direttore di un quotidiano italiano, devi fare, Udo, tu, vabbè, lasciamo perdere. Comunque questa Mannesmann aveva costruito questa grande azienda di telefonia mobile, però poi arrivarono questi cattivi inglesi della Vodafone a comprarsela, sono di miliardi, di molti miliardi, che infatti loro così sono diventati numero uno del settore privato, e in Germania non ci fu resistenza, nonostante qualcuno chiedesse al governo di intervenire per proteggere. Comunque nel caso della Opel, per arrivare ai giorni d'oggi, mi pare che il prezzo pattuito è 2 miliardi che la General Motors deve incassare, perché poi adesso con il nuovo trumpismo posti di lavoro in Europa non ne frega più niente a nessuno, in America, che comunque il gruppo Peugeot Citroën vuole anche prendersi naturalmente l'altra figlia affiliata americana della General Motors, la Vauxhall in Inghilterra. Dunque così gli americani si sbarazzano di due aziende che da tanti anni fanno solo perdere. Dal 2000, però, sì, sono veramente tanti. Sì, e soprattutto si preparano alla fusione, così scrivono i trionfalmente giornali italiani, con Fiat Chrysler. E questo vedremo. Sì, probabilmente sì, che così ciò che una volta era un'azienda almeno italiana di sede e sarà a tutti gli effetti un'azienda americana, no? Sì, però ricordo che Daimler Chrysler fu uno dei peggiori insuccessi, te lo ricordi? Bravo, tu? No, perché sai, sono cose che insegniamo ai nostri ragazzi, e voglio capire mai gli americani se ne vanno dall'Europa, ma gli italiani che sono andati in America a fare shopping, sia pure con modalità che ben conosciamo, alla fine hanno messo in piedi qualcosa che ci sta in piedi. Marchionne ha usato il momento giusto, come si deve fare in economia. Nella vita è così. Esatto, mentre Daimler ha fatto un investimento talmente tragico che stava per rischiare di mandare, esatto, all'aria tutta l'azienda. Sì. E perciò è stata una strategia all'epoca completamente sbagliata di allargare, cioè, ovvero di crescere attraverso il merging, attraverso la compravendita di aziende. Comunque, in sintesi, diciamo a chi ci ascolta che non c'è stata nessuna levata di scudo, il Bundestag convocato. No, l'unica questione che è aperta in Germania, però a livello trattative tranquille, è la questione che la General Motors, quando l'azienda quasi stava per chiudere, aveva chiesto al sindacato e al governo un aiuto per calmierare delle richieste dei dipendenti, per garantire posti di lavoro nelle sedi storiche della Opel, perché voi sapete che la Opel è, mi pare, del 33-34 e degli americani, o forse del 38, non mi ricordo bene. Comunque è in piena crisi mondiale, General Motors leva la Opel perché era in grande crisi, comunque un'azienda storica tedesca. E dunque l'unico problema è che la General Motors dava delle garanzie al sindacato tedesco e al governo locale, regionale, che poi in Germania sono molto più potenti, perché il federalismo che qua si è voluto fare in Germania è esistito ed è forse anche delle ragioni della grande crescita e del grande sviluppo economico tedesco, proprio il vero federalismo che poi qui la Lega ha abbandonato, altra stoccata così en passant. Comunque lì c'è un problema di posti di lavoro, perché chiaramente i francesi in tempi anche di elezioni, che poi considerate, non dimenticatevi che quell'azienda ha un 30% di Stato, è già. Stato francese, che compra da un'azienda privata in Germania. Dunque lì, quando lo Stato di un altro paese compra aziende a casa tua, uno qualche parola deve spendere. Il governo tedesco spende soltanto parole a favore del mantenimento dei contratti. Dei poi sapete, i tedeschi hanno questa strana storia pacta sunt servanda, no? Ah, questo è un difetto inguaribile. Esatto, è una fissa, questa tedeschi, idea, no? Che le cose devono rimanere assurda. Come sono. Ma che stupidaggine. Ma quella è una roba proprio possiamo anche dire che sarebbe veramente fuori luogo una levata protezionistica, perché i produttori di auto devono consolidarsi, lo sappiamo, questa è una cosa che Marchione sta ripetendo. La tecnologia dell'automobile sta cambiando radicalmente in questi anni, non è possibile far fronte a investimenti se non facendo pool di ricerca e sviluppo, quindi è un fatto ineluttabile. Succede anche nelle banche, caro Udo, forse volete comprare voi il nostro piccolo giocattolino rosso in vendita per caso? Perché sennò assolutamente no. Secondo me, quando si parla di banche italiane in Germania si fanno le croci, si inginocchiano, cercano con una l'aglio, fanno le corna, cercano l'aglio. Sì, infatti proprio imparano anche le gesta più sconveniente per questi teutonici autotropaici ormai. No, guarda. Non ne parlare di banche italiane in Germania, vedi proprio come si afflosciano scappano dalla finestra. Comunque, no? cari ascoltatori, wir leben Banken, posso dire questo? Ricordate, cari ascoltatori, questo dato: chi si è prodigato a tutelare i produttori nazionali per difendere la bandierina, cioè l'Italia, nel 2016 è tredicesimo esportatore al mondo di auto. Chi ha rinunciato a farlo, per esempio la Gran Bretagna e la Spagna, sono quinti e sesti al mondo, la Germania è prima. Noi abbiamo voluto per oltre un secolo bearci con la Fiat, siamo tredicesimi, anche se abbiamo ripreso posizioni e siamo tornati tredicesimi solo grazie a Marchionne, perché se n'è andato altrove, perché altrimenti eravamo sotto i ventesimi per come stavamo messi. Questo è il quadro della faccenda. Caro Udo, in quest'ultima settimana Schulz oramai è 11 punti sopra la cancelliera. Cosa ci dici? Quanti diventeranno? 20, 30 punti di vantaggio secondo te o a un certo punto? Sì, però adesso tu vedi la stima personale, non vedi il voto alla persona, perché non dobbiamo dimenticare che anche in Germania c'è un sistema parlamentare rappresentativo, il cancelliere non viene eletto direttamente, però la stima di cui Schulz gode nella popolazione tedesca è immensa, ma direi per due ragioni molto semplici. Uno, non si è macchiato nessuna colpa in Germania perché era sempre stato in Europa. Due, forse in Europa si è fatto più amici che nemici, perché è noto come uno che ha tentato di fare il compromesso, di mettere d'accordo. Vabbè, questo è anche stato per tanti anni una caratteristica della Merkel, però con la crisi dei profughi lei si è fatta più nemici che amici in Europa. E la seconda, molto molto importante, in Germania, e Schulz è un simbolo dell'ascesa sociale di persone che non hanno né laurea. Questo è bello. Ti spiace ricordarlo? Che questo si è imparato quattro lingue, si è fatto un mazzo, si è reinventato un mestiere. E rappresenta... reinventato, esatto. Vedi che cosa c'è di carriera possibile. Lui non ha neanche la maturità. È stato cacciato alla terza del liceo, è bocciato due volte, ha fatto libraio, ha avuto un passato di alcolizzato molto grave, e si è sempre reinventato. E poi lui, allora, uno è che lui veramente ha un curriculum eccellente per rappresentare quel 30% dei tedeschi che appunto si sente un po' escluso da questa grande... sono d'accordissimo, è proprio questo. E lui ha un programma molto semplice. Tanto è vero che la cosa che mi ha... Lui ha detto giustizia sociale, nel senso che io devo raggiungere quelle persone che una volta ponevano la speranza nel Partito Social Democratico, ovvero esatto. Come tant'è anche in vero Italia è successo. Che la cosa che mi ha colpito è che quello che si vede nei sondaggi questa volta dell'intenzione di voto è che la ripresa di punti verso l'SPD si legge nella diminuzione dei voti nei sondaggi Alternative for Deutschland, che uno dice, non direbbe mai, no? Sono elettorati collegati, ma è esattamente quello che sta dicendo Udo Gumper, cioè l'SPD riprende il dialogo della rappresentanza potenziale, poi di qua quando si vota si vedrà, verso un mondo di esclusi che invece aveva perso. Scendono anche i voti di Linke, un pochino anche dei Verdi, ma questo è più chiaro, più comprensibile, ma che scendano anche quelli un po', sia pur di un punto erotti, di Alternative for Deutschland, fa pensare. Comunque, grazie a Udo Gumpel, buon soggiorno perugino, buon olio, la fassona, l'olio, io perdo i sensi tra un po', e noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi di Scipio finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, Mario, che dici di questo? Di questo? Qua niente, non riusciamo mai a dare una rappresentazione. In questo caso mi prendo la colpa io, i giornalisti, non Mario, che considero professionista, o Carlo Alberto, che è un professionista e insegna anche. Ma detto questo, ma non riusciamo mai a evitare di dare una rappresentazione della Germania sbagliata. Anche questa vicenda della Opel, infatti, vedendo i giornali tedeschi, esattamente come dice Udo, vedevi i giornali italiani, sembrava che ci fosse il Parlamento tedesco convocato d'urgenza per i cavalli di Frisia alla frontiera con la Francia. Perché i giornali italiani sono giornali, come dire, scandalistici. Purtroppo il livello di degrado è arrivato a quel punto lì. Evidentemente o rispondono a una domanda di mercato, che è quella dello scandalismo e del deficit di approfondimento del titolo acchiappa click o acchiappa lettori, oppure non lo so se siamo messi veramente così male. Comunque la Germania, come del resto l'Italia e la Francia, è protagonista di una iniziativa, sono stati loro che l'hanno lanciata per primi, di controllare le acquisizioni cinesi, no? Quelle che sono sensibili nei settori della difesa, quelle che hanno dietro entità di Stato, quelle che potrebbero implicare il trasferimento di alta tecnologia e con una forte componente di ricerca e sviluppo. Quindi magari lì c'è un po' più di attenzione che non a realtà che sono con valore aggiunto minore, con minore criticità rispetto a quelle che sono le auto. Però Oscar, una cosa, come diceva Udo, nella partita è anche il brand britannico di Opel, che è la Vauxhall, i quali stanno soffrendo già di loro per il crollo della sterlina. C'è questo da dire, no? Per la reimportazione di componenti che poi vengono lavorate, che sballano praticamente i conti della divisione. Attenzione, perché in tutto questo discorso di razionalizzazione della capacità produttiva, la vittima sacrificale designata, proprio per i motivi indotti dalla debolezza della posizione britannica nelle more della Brexit, potrebbe essere Vauxhall. Quindi su questa cosa bisognerebbe riflettere. Anche perché anche questo diventa un capitolo dei trionfi forse mal fondati. Basta vedere la quantità di investimenti, di disinvestimenti in Inghilterra a fronte al Brexit. Lo so, ma per il momento bisogna aspettare che la cosa si manifesti nel tempo prima di parlarne, perché sennò, come sapete, dall'altra parte veleggia un trionfalismo, così veleggiava trionfalismo. Ma per favore, cioè, gli investimenti sono un fatto che si sta manifestando adesso, le scelte organizzative sono adesso. Si vedranno dopo, esatto. Allora, Renato, ci sei? Buongiorno. Allora, hai finito di espanderti, girare il mondo per comprare nuove aziende? Ma per forza poi il PIL esplode, qui l'export, c'è gente come Renato che lavora anche sabato e la domenica per esportare le sue macchine. No, adesso sono davanti all'edicola, al posto preferito di Oscar. Tra l'altro l'edicolante è un nostro ascoltatore. Meno male. È un nostro ascoltatore affezionato. Che ci dici, Renato? Allora, io vi dico che ho scoperto di aver contribuito nella mia piccola parte con qualche milioncino a un surplus commerciale che evidentemente riusciamo ad avere anche se abbiamo l'euro che non va benissimo, eccetera, eccetera, e questo mi fa solo felice. Poi la notizia della settimana è una cosa un po' tecnica, però è l'Intrastat, e io volevo dire, se c'è qualche politico in ascolto da queste parti, che se mi chiamavano glielo dicevo io che l'Intrastat era una cosa che noi dovevamo fare per forza per la comunità europea, perché sennò non si sa come compensare le IVE, le OVAT dei vari paesi. Spiega bene che cos'è questo Intrastat, spiegalo meglio. L'Intrastat è l'elenco delle importazioni ed esportazioni che si fanno verso la comunità europea. Unione Europea, certo. L'esenzione IVA, sì, io sono vecchio, quindi sai, sono rimasto alla comunità europea. Siccome si fanno in esenzione IVA, poi gli stati hanno delle compensazioni sulla parte IVA e quindi ogni azienda fornisce un elenco di quanto ha esportato e quanto ha importato. Per semplificare, l'hanno tolta, peccato che sia appunto una cosa che va fatta per l'Europa e quindi non si poteva togliere. E quindi adesso non sappiamo cosa dobbiamo fare il 25 di febbraio, ma questo ormai è ordinaria amministrazione con i nostri governanti. Nel frattempo sai che mica è stato sanato il problema del decreto con i criteri la determinazione delle imposte, con i criteri contabili sul bilancio 2016, ma cosa vuoi che sia? Sì, ci hanno da fare, devono imporre a Del Rio. Siamo in azienda, non è che ti abbiamo... abbiamo molto da fare, siamo lì ad aspettare i loro decreti in modo da cambiare il bilancio poi all'ultimo momento. Questo ce la dice lunga su quanti ostacoli si mettono anche a coloro che cercano faticosamente di esportare, manco l'Intrastat gli riescono a spiegare. Capito? Come fare, incredibile. No, però voglio dire, in realtà tu Renato lo dici giustamente, ognuno ha il suo stile, tu produci, esporti e sorridi. Io ti invidio perché io urlerei come un pazzo, cioè, nel senso ma che... io cosa vuoi che faccia? No, cioè, ma hai ragione. Cioè, chi fa il mio mestiere è in una situazione che non sa più cosa fare, perché si trova davanti delle persone che continuano a dire: voi dovete produrre, dovete aumentare le aziende, dovete fare rete, dovete fare queste cose qua, e poi le leggi che escono sono esattamente l'opposto, come per esempio le cose di Flick, degli autobus. Esatto. Cioè, dobbiamo fare rete, allora qual è il metodo dobbiamo migliore fare per fare rete? Create occupazione aggiuntiva, sì, trasportate 3 milioni di passeggeri in più, poi non va bene. C'è la solita azienda municipalizzata bravo. Del coso che dove c'è l'amministratore delegato che è un politico trombato, esatto. Il quale si mette lì e dice: ah, ma io sono molto più bravo di loro a fare il ricorso al TAR, il ricorso no, ma in questo caso ha l'accesso diretto queste cose qua. Al Parlamento chiama il suo parlamentare e gli dice: senti, ma toglimi un po' dalle scatole quelli lì che mi danno, esatto, fastidio, perché fanno vedere che si può fare un business diverso, più aderente a quelle che sono le richieste del mercato e che può stare in piedi senza che il comune ci butti dentro una paccata di soldi, come succede nella maggior parte delle nostre municipalizzate. Esattamente. Bravo Renato, sono contento che l'hai ribadito, perché i nostri ascoltatori devono avere chiaro che questa roba qua... Se mi arrabbiare è evidente che mi arrabbio, ma ci sei già tu che... No, ma fai bene tu l'imprenditore devi sorridere e dire: malgrado tutto porto a casa il risultato. Chi fa il mio mestiere deve essere ottimista per la definizione, perché se non sei ottimista l'azienda la chiudi dopo 10 minuti. Non c'è dubbio. Ma io ti volevo appunto rendere atto di questo, come voglio rendere atto ai miei compari Mario e a Carlo Alberto di essere titolare di un automeccanismo di regolazione che a me a volte sfugge, perché il piede sulla frizione mi scappa, però quando vedo che esistono imprese che hanno accesso diretto al Parlamento per uccidere concorrenza nuova che crea domanda aggiuntiva, io mi incazzo. Quando vedo il governo che dice: prometto che torniamo a leggere il 92 per l'ennesima volta ai tassisti, poi manco quello, ma che era sbagliato farlo, e comunque determina a quel punto l'emersione del peggio nello scontro Uber Taxi, e io mi incazzo. Quando promettono di intervenire sulle partecipate leggo il decreto e non è così, mi incazzo. Se saltano i criteri di onorabilità mi incazzo 10 volte, mi incazzo, sì, voglio questo morire capito Oscar, voglio a prescindere ti incazzi. Cari compari, un abbraccio a voi, ascoltatori, continuate sulla 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani lunedì mattina alle 8:20, attenti noi due.